terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Introduzione di Massimo Raffaeli. Come sanno tutti i lettori, Madame Bovary è il primo romanzo di Gustave Flaubert del 1856. È stato scritto come una specie di tela di Penelope, disfatta di giorno e rifatta di notte. Gli è costato un processo per oscenità e oltraggio alla morale, da cui è stato assolto. Tanto che gli scrittori della generazione successiva, i naturalisti, Maupassant, Zola e Goncourt, in quel tipo di materia scabrosa, come si direbbe oggi, ci hanno inzuppato il pane. Però Flaubert li ha tenuti a distanza, ha preferito la solitudine nelle campagne della sua Normandia, non si è mai ritenuto uno scienziato o un sociologo come loro, ma piuttosto uno stilista, un artigiano, insomma un professionista borghese che assolvesse bene il proprio compito. Ma, come pure sanno tutti i lettori, Madame Bovary è la storia del matrimonio infelice di Emma con Charles, un medico che la fa vivere in provincia dalle parti di Rouen, in una società piccola piccola e insignificante, si direbbe quanto lui. Dice di Charles Bovary Flaubert che la sua conversazione era piatta come un marciapiedi. Ma il romanzo è anche e soprattutto la storia dell'adulterio e del doppio tradimento di Emma, con due bellimbusti, Léon, un uomo, un ragazzo mite, e Rodolphe, che invece è un uomo focoso, invadente. Entrambi la portano a una depravazione, diciamo così, erotica, a una corruzione morale e infine alla rovina economica che prelude a un suicidio con l'arsenico. Emma vuole quello che non ha. Da loro vuole tutto, l'amore, la pienezza sensuale e sentimentale, in una parola una specie di Eden dentro all'inferno della provincia normanna. Eppure non ottiene niente, se non il proprio annientamento, come se invece del paradiso ottenesse l'inferno, l'infamia. A poche pagine dalla fine del romanzo e dal veleno, Emma per la prima volta vede la sua vita per quello che realmente è, per quello che è tuttora. Dice Flaubert, è un ammasso di rovine. Le sopravvive nulla se non il lutto, che noi lettori troviamo paradossale, persino crudele, proprio di suo marito Charles, la cui fedeltà ha qualcosa di eroico, ma anche di, non so, di ottuso, di inerte, di bovino. Lei non la vuole, anzi la considera più offensiva di un tradimento. Ma chi è Emma? E perché la sua storia ha potuto intrigare uno scrittore così distaccato, formalista e anche così refrattario, si direbbe, alle seduzioni dei contenuti forti? Diceva una vecchia amante e collega di Flaubert, Louise Collet, che per Flaubert l'amore non era nulla, anzi era solo motivo di dissertazione, una lettera morta. Forse Flaubert vuole dare forma all'anima di Emma, dominare con una esattezza tirannica, cioè la scrittura, la sua scrittura, quel caos di desideri, pulsioni e di aspirazioni vane che per Emma sono tutto e per lui forse il solo modo per farla finita con la retorica dei sentimenti, cioè con il romanticismo. Emma è strangolata dal più romantico dei conflitti. Vive nella realtà, vuole evaderne e però naufraga nell'ideale. Noi non sappiamo nulla di lei e però Flaubert ci tiene a farci sapere, e con una cadenza implacabile, che leggeva molti libri, molti romanzi, talmente tanti che a un certo punto le vengono impediti. E l'elenco fa impressione. Chateaubriand, Bernardin de Saint-Pierre, Walter Scott, La Lucia di Lammermoor. Emma muore intossicata di letteratura, quella che per Flaubert, ben inteso, è cattiva letteratura. Ogni volta questa letteratura serve a coprire o a rimuovere il vuoto che lei ha dentro, che lei non vuole interrogare e neppure guardare. Perciò si affida alla letteratura e dunque si affida a un surrogato, a una specie di similvita, la vita dei romanzi. Buon ascolto. Eravamo in aula di studio ed entrò il rettore. Dietro gli venivano un nuovo ancora in panni borghesi e un bidello che trascinava un banco. Quelli che dormivano si svegliarono. Ci tirammo su tutti con l'aria di essere stati sorpresi nel fervore dell'attività. Il rettore fece segno che ci rimettessimo a sedere, poi si rivolse al prefetto. «Signor Roger», gli disse a mezza voce, «vi affido questo allievo, entra in quinta. Se il suo profitto e la sua condotta saranno buoni, lo passeremo tra i grandi come vorrebbe la sua età». Se ne restava nell'angolo, dietro la porta, lo si vedeva appena, il nuovo. Un ragazzo di campagna, avrà avuto un 15 anni, era sicuramente più alto di tutti noi. Aveva i capelli tagliati netti a frangia sulla fronte come un chierico di paese, un'espressione mite e piuttosto impacciata. Cominciammo a ripetere le lezioni. Ascoltava tutto orecchi, come se fosse in chiesa alla predica. Non s'azzardava neppure a incrociare le cosce o ad appoggiarsi sul gomito. Alle 2, quando suonò la campanella, il prefetto dovette dirglielo di mettersi in fila con noi. Entrando in classe, avevamo l'usanza di scaraventare i nostri berretti per terra, in modo da avere le mani libere il più presto possibile. Si trattava di lanciarli dalla soglia sotto il banco, facendoli sbattere contro la parete e sollevando nugoli di polvere. Era un costume della tribù. Ma sia che lui non avesse notato la manovra, sia che non si sentisse il coraggio di parteciparvi, alla fine della preghiera aveva ancora il suo berretto sui ginocchi. «In piedi!» disse il professore. Lui si alzò. Il berretto cadde. Tutta la classe rise. Lui si chinò a raccattare il copricapo. Con il gomito un vicino glielo ributtò giù. Lui tornò a raccattarlo. «E allora liberati dall'elmo!» disse il professore, che era uomo di spirito. La fragorosa risata dell'intera classe sconcertò il povero ragazzo. Non sapeva più se dovesse tenere il berretto in mano, lasciarlo per terra o metterselo in testa. Così si sedette di nuovo e di nuovo posò il copricapo sui ginocchi. «In piedi!» disse il professore. «E il tuo nome?» balbettò qualcosa di incomprensibile. «Ripeti!» Lo stesso balbettio di sillabe si fece udire e fu sopraffatto dagli schiamazzi della classe. «Più forte!» gridò l'insegnante. «Più forte!» Allora, con estrema decisione, il nuovo spalancò una bocca smisurata e a pieni polmoni, quasi invocasse qualcuno, lanciò una parola del genere. «Charbovary!» Fu tutto un grande strepito. Salì in crescendo con acuti scoppi di voci. Si urlava, si abbaiava, si trepestava, si ripeteva perdutamente «Charbovary! Charbovary!» Poi si frantumò in note isolate, placandosi a stento, per riprendere a un tratto in una fila di banchi, ove scoppiettava ancora come un petardo non spento qualche risatina soffocata. A ogni modo, sotto la pioggia dei pensi, l'ordine fu ristabilito nella classe e il professore, che dopo esserselo fatto dettare, sillabare e rileggere, era riuscito ad afferrare il nome di Charles Bovary, impose al malcapitato di andare a sedersi al banco dei fannulloni a ridosso della cattedra. Lui si mosse, ma esitava sempre. «Cosa cerchi?» domandò il professore. «Il mio bere», disse timidamente il nuovo e scoccava intorno occhiate inquiete. 500 versi a tutta la classe!» furiosamente proruppe l'insegnante, frenando in tal modo, come il quos ego, una nuova burrasca. «Starete buoni così?» continuò. Ed era proprio indignato. S'asciugava la fronte con il fazzoletto estratto dal suo tocco. «Quanto a te, ultimo venuto, mi copierai 20 volte la proposizione ridiculus sum!» La sera, in aula di studio, tirò fuori dal banco le sue mezze maniche, mise in ordine le sue proprietà, rigò scrupolosamente i suoi fogli. Lo vedemmo lavorare coscienziosamente, cercando ogni parola sul dizionario, concentrato sino all'affanno. Senza dubbio fu grazie a tale ostentazione di buona volontà che evitò di essere condannato alla classe inferiore. Infatti, anche se sapeva abbastanza le regole, era sprovvisto di qualsiasi eleganza di stile. Era stato iniziato al latino dal curato del suo paese. Per fare economie, i suoi genitori lo avevano mandato in collegio il più tardi possibile. Suo padre, Charles Denis Bartholomé Bovary, già aiuto chirurgo militare, compromesso verso il 1812 in certi imbrogli amministrativi al distretto e costretto a dar le dimissioni, aveva approfittato della propria bella presenza per arraffare al volo una dote di 60.000 franchi nella persona della figlia d'un merciaio pronta ad accendersi d'amore. Una volta sposato, visse per un 2 o 3 anni alle spalle della moglie, mangiando bene, alzandosi tardi, fumando in grandi pipe di porcellana, rincasando la sera solo al termine dell'ultimo spettacolo, solo dopo aver vagato di caffè in caffè. Il suocero si tolse di mezzo, ma l'eredità fu misera. Lui si indignò, si lanciò nell'industria, perse un poco di soldi in speculazioni sbagliate. Alla fine si ritirò in campagna. Quando ebbero un figlio, fu necessario metterlo a balia. Quando rientrò in casa, il marmocchio fu viziato come un principe. Sua madre lo rimpinzava di marmellate, suo padre lo lasciava scorazzare scalzo e, per fare un poco di filosofia, dichiarava che il bambino avrebbe potuto andarsene in giro tutto nudo come i cuccioli delle bestie. In disaccordo con la moglie, l'uomo possedeva un ideale virile dell'infanzia, secondo il quale cercava di formare il figlio, convinto che una dura educazione alla spartana gli avrebbe garantito un fisico robusto. Non ammetteva, quindi, che il bambino avesse il letto riscaldato. Gli insegnava a mandar giù gran bicchieri di rum e a lanciare insulti contro le processioni. Ma di natura dolce, il piccolo non rispondeva molto agli sforzi paterni e sua madre se lo trascinava sempre dietro. Gli ritagliava pupazzi di carta, gli raccontava favole, si sfogava con lui in certi monologhi senza fine, zeppi di malinconiche ilarità e di leziose civetterie. Nell'isolamento della sua esistenza, la donna riversava su quel tenero capo tutte le sue vanità deluse, frustrate. Sognava alte cariche per lui e già se lo vedeva grande e grosso, bello, brillante, un'autorità del genio civile o della magistratura. Gli insegnò a leggere e lo spinse persino, servendosi del suo vecchio pianoforte, a imparare 2 o 3 romanzette. Ma il signor Bovary, che non nutriva certo un debole per la cultura, reagiva a ogni iniziativa del genere dicendo che non valeva la pena. Avrebbero mai potuto disporre del denaro necessario per mantenere il figlio alle scuole statali, per acquistargli un qualche posto o un negozio? A 12 anni sua madre l'ebbe vinta. Fu deciso di farlo studiare. L'incarico della sua istruzione fu affidato al curato. Ma le lezioni erano talmente brevi e talmente poco seguite che non potevano servire molto. Venivano impartite in sacrestia nei momenti in cui non c'era nulla di meglio da fare, in fretta e furia tra un battesimo e un funerale. A ogni modo, il curato era sempre contento dell'allievo, anzi, affermava che il giovanotto possedeva una gran memoria. Charles, insomma, non poteva fermarsi a quel punto. Infine, il ragazzo venne inviato al collegio di Rouen. Ve lo condusse suo padre in persona verso gli ultimi d'ottobre, all'epoca della fiera di San Romano. Adesso nessuno di noi riuscirebbe a ricordarsene con un minimo d'esattezza. Era un ragazzo piuttosto tranquillo. Giocava durante la ricreazione e si applicava durante lo studio. In classe stava attento, in dormitorio faceva tutto un sonno. In refettorio aveva sempre appetito. A forza d'applicarsi, riuscì a mantenersi nei posti di mezzo. Una volta arrivò addirittura a meritare una menzione di primo grado in storia naturale. Ma finita la terza, i suoi lo ritirarono dal collegio per fargli studiare medicina. Erano convinti che ce l'avrebbe fatta da solo a conseguire il diploma. Thank you. Il programma dei corsi, quando lo lesse affisso, lo stordì. Corso d'anatomia, corso di patologia, corso di fisiologia, corso di farmacia, corso di chimica e di botanica e di clinica e di terapeutica, senza contare l'igiene e il resto. Tanti nomi di cui ignorava le etimologie, tante porte di santuari gremiti di tenebre auguste. Non ci capì nulla. Aveva un bell'ascoltare, non afferrava. Eppure sgobbava. Aveva quaderni rilegati, seguiva ogni corso, non perdeva un'esercitazione. Compiva il suo minuto lavoro quotidiano allo stesso modo del cavallo da argano che gira, gira, inchiodato con la pezza sugli occhi, nell'assoluta ignoranza di quanto fa. Dimagrì, si allungò, la sua faccia assunse una perpetua espressione dolente che lo rese quasi degno d'interesse. A poco, per naturale pigrizia, finì per abbandonare tutti i buoni propositi, gli obblighi che si era fatto. Gli bastò mancare una volta a un'esercitazione, il giorno dopo fu assente alla lezione. Ci prese gusto. Non pensò neppure più ad andare a scuola. Fece in fretta l'abitudine a frequentare le bettole. Era l'iniziazione al mondo, l'accesso ai piaceri proibiti. Entrando, indugiava nell'atto di posare la mano sul pomo della porta, provava una gioia quasi sensuale. Allora tante cose, sino a quei giorni compresse, lievitarono in lui. Imparò canzonette da dedicare ai compagni di svago, si entusiasmò per Béranger, apprese a preparare il punch e conobbe finalmente l'amore. Grazie a una simile preparazione, i suoi esami da ufficiale sanitario furono un completo fallimento. E a casa lo aspettavano quella sera stessa per festeggiare il buon successo. Partì a piedi e si fermò all'entrata del villaggio. Lì fece venire sua madre e le raccontò tutto. La donna fu pronta a scusarlo, riversò ogni colpa dello scacco sull'ingiustizia degli esaminatori e incoraggiò il figlio, assicurando che ci avrebbe pensato lei ad aggiustare le cose. Charles si rimise dunque al lavoro. Preparò, senza concedersi la minima interruzione, le materie dei suoi esami, imparando anticipatamente a memoria la risposta a qualsiasi domanda. Fu promosso con una nota di merito. Che bel giorno fu quello per sua madre! Venne imbandito un gran pranzo. E ora, dove sarebbe andato a esercitare la sua arte? A Tot! Da quelle parti c'era soltanto un vecchio medico. Da tempo la signora Bovary ne aspettava la morte, e il brav'uomo non aveva ancora fatto fagotto che già Charles era installato davanti a lui come suo successore. Ma non bastava aver tirato su il figlio, averlo spinto a fare il medico. La signora Bovary doveva cercargli anche una moglie. E gliene scovò una. Era vedova di un usciere di Dieppe. Aveva 45 anni d'età e 1200 franchi di rendita. Sebbene fosse brutta, magra come un palo e foruncolosa come una primavera, la signora Dubuc aveva solo l'imbarazzo della scelta tra un partito e l'altro. Per coronare i suoi sogni, la signora Bovary fu costretta a soppiantare la concorrenza. Se la cavò molto abilmente persino contro gli intrighi di un salumaio sostenuto dai preti. Charles aveva intravisto nel matrimonio l'avvento di una condizione migliore. Si aspettava di essere più libero, di poter disporre maggiormente di sé e del suo denaro. Ma la moglie diventò il suo padrone. In pubblico lui doveva dir questo, non dir quello, mangiar di magro ogni venerdì, vestirsi come piaceva a lei, ubbidirla sino in fondo, tormentando i clienti che non saldavano i loro conti. E ogni mattina lei aveva bisogno della sua cioccolata, di un'infinità di attenzioni. Si lamentava incessantemente del disordine dei suoi nervi, del suo petto, dei suoi umori. Quando Charles rincasava la sera, lei tirava fuori dalle lenzuola le lunghe braccia magre, gliela allacciava intorno al collo, lo costringeva a sedersi sull'orlo del letto e cominciava a dar sfogo ai propri dolori. Lui la trascurava, di sicuro era innamorato di un'altra.